giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ramadan, fedeli in piazza a Monfalcone dopo lo stop ai raduni nei centri culturali islamici. La proposta della preghiera collettiva all'aperto durante il mese sacro con raduni collettivi la sera e il venerdì all'ora di pranzo fino all'8 aprile. Sarà discussa domani in un vertice in prefettura a Gorizia. Due uomini di origine colombiana sono rimasti feriti nelle prime ore di questa mattina in una rissa scoppiata a Trieste in via Pondares, nei pressi di un locale nel quale si era svolta una festa. Maxi rissa nella tarda serata di ieri anche a Udine, con una dozzina di giovani coinvolti. Neve abbondante e pioggia stanno creando qualche problema soprattutto in montagna, dove il rischio valanghe è stato alzato a livello 4, chiuse alcune piste. Per fermare la revisione del codice della strada che sarà discussa nei prossimi giorni in Parlamento, questa mattina a Trieste una mobilitazione dal titolo Stop al nuovo codice della strage, con un volantinaggio davanti alla prefettura. Basket a 2 continua la serie positiva per la Gesteco Cividale, che si impone in casa contro Latina, ora sogna i play-off. Nel pomeriggio scendono in campo le altre due regionali, Trieste in casa contro Treviglio e Udine al Pala Carnera contro Cremona. Le 12 e 16 minuti, questi titoli. Ancora un buongiorno e una buona domenica da Giorgio Bearz e da Razzani per questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia del 10 marzo. In apertura, preghiera e protesta, musulmani in piazza a Monfalcone per il Ramadan. La comunità islamica intende pregare davanti al municipio ogni sera per tutto il mese sacro. La sindaca Cisin dice: faccio solo applicare le leggi. Intendono scendere in Piazza della Repubblica sotto il municipio di Monfalcone ogni sera in ciascuno dei 30 giorni del mese sacro del Ramadan, a partire da oggi. Saranno un 500, stimano, in piazza per pregare e per protestare, spiega Bokunate, il presidente del centro culturale Darussalam, leader della comunità islamica della città, nonché già assessore. La protesta è contro l'amministrazione comunale guidata da Anna Cisint, che denunciano nega spazi per la preghiera collettiva, un'accusa rispedita al mittente dalla sindaca, la quale sostiene che sta semplicemente facendo applicare le leggi italiane. Un'accusa aggiunge che le è costata quelle minacce di morte sulla base delle quali le è stata assegnata una scorta. Le manifestazioni sono state annunciate dopo che il Consiglio di Stato ha accolto provvisoriamente il ricorso della comunità contro la decisione del Comune, appoggiata dal TAR, di chiudere i due luoghi di culto presenti per il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza, in particolare perché erano sovraffollati. Consiglio di Stato che dovrà pronunciarsi nel merito il 19 marzo. Secondo Cisint, fatta salva la libertà di manifestazione, non si può utilizzare una piazza pubblica per una preghiera. Della questione si occuperà la prefettura di Gorizia con il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza domani mattina. Intanto, già stasera, l'appello è a presentarsi sotto il municipio. Tuttavia, il questore Luigi De Ruscio potrebbe emanare delle prescrizioni rispetto al preavviso di manifestazione pervenuto venerdì sera, quindi meno delle 72 ore di anticipo previste dalla legge. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca: due uomini sono rimasti feriti nelle prime ore di questa mattina in una rissa scoppiata a Trieste in via Pondares, nei pressi di un locale nel quale si era svolta una festa. Si tratta di due uomini di origine colombiana di 33 e 48 anni, il più grave dei quali sembrerebbe colpito con una bottiglia e è stato condotto in codice giallo all'ospedale di Cattinara. Al momento dell'intervento delle volanti e della questura di Trieste, intorno alle 8, tutte le altre persone coinvolte nella rissa si erano dileguate e al momento non è dunque stato possibile identificarle. E c'è stata una maxi rissa ieri anche a Udine, protagonisti una mezza dozzina di giovani appartenenti a due gruppi distinti che intorno alle 22:30 si sono affrontati a più riprese a furia di spintoni, schiaffi e pugni. Ignote al momento le cause che hanno fatto scattare l'episodio. Sul posto a sedare gli animi sono intervenuti in pochi minuti agenti della Polizia di Stato con il supporto dei carabinieri. Trieste si mobilita insieme a tante altre città in Italia per fermare la revisione del codice della strada che sarà discussa nei prossimi giorni in Parlamento. FIAB Trieste Ulisse e Legambiente Trieste hanno infatti aderito alla mobilitazione Stop al nuovo codice della strage, con un volantinaggio questa mattina davanti alla prefettura. Fermare la revisione del codice della strada proposta dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che sarà discussa nei prossimi giorni in Parlamento. Questo è l'obiettivo della mobilitazione nazionale di FIAB e Legambiente, che a Trieste, a causa della pioggia, al posto del flash mob previsto davanti alla prefettura, ha preso le forme di un volantinaggio ai cittadini per illustrare le ragioni della contrarietà alle modifiche in discussione e chiedere ai parlamentari regionali di non approvarle. La riforma, dicono le associazioni ambientaliste, diminuirebbe la sicurezza sulle strade limitando gli autovelox, rendendo più difficile la realizzazione di piste ciclabili e limitando l'autonomia dei comuni in materia di traffico, ad esempio per quanto riguarda l'introduzione delle zone con limite di circolazione a 30 km all'ora. Da qui lo slogan «Stop al nuovo codice della strage». Sul piano locale, Trieste, dice Federico Zadnic, componente del direttivo della FIAB cittadina, ha un problema molto grosso in termini di sicurezza stradale, con 12 morti e 1.165 feriti nel 2022. Noi chiediamo, ha aggiunto, di introdurre il limite 30 in ambito urbano, come ha fatto Bologna, dove i dati dicono che nel primo mese del provvedimento il traffico di biciclette sulle ciclabili è aumentato del 29% e gli incidenti che hanno coinvolto i pedoni sono scesi del 25%. Trieste, Daniele Letti, TGR, Friuli Venezia Giulia. Come nelle previsioni e nell'avviso di allerta gialla da parte della Protezione Civile, in vigore fino a domani alle 6, la regione è attraversata da una forte ondata di maltempo con neve abbondante e pioggia che sta creando qualche problema soprattutto in montagna, dove il rischio di valanghe è stato alzato a livello 4. Nello specifico a Piancavallo, per rischio slavine, sono state chiuse due piste, la Salomon e Nazionale Alta. Chiusa la Funifor Prevale, la Seggiovia Gilberti a Sella Nevea, il Parco Nevelandia a Sappada. E uno sguardo al tempo, cielo da nuvoloso ha coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 13 gradi e 5 decimi, a Udine e Pordenone 10 gradi e 5 decimi, a Gorizia 10 gradi. Tolmezzo 6 gradi e mezzo, Tarvisio 4 gradi, Piancavallo 3, Forni di Sopra 2 gradi e mezzo, Sappada 1 grado e mezzo. Sul Monte Zoncolan meno 5 decimi di grado, sul Monte Lussari meno 1 grado, a Grado 13 gradi, a Lignano 10 gradi e mezzo. E queste le previsioni dell'ARPA regionale, oggi cielo coperto con precipitazioni diffuse dal pomeriggio, in genere moderate sulla costa, intense in pianura e in montagna, con possibili locali rovesci temporaleschi. Quota neve in rialzo nel corso della giornata fino a 1.800 metri. Vento forte da sud in quota con condizioni di bufera. Sulla costa e sulla bassa pianura soffierà vento di scirocco anche forte, con possibili mareggiate tra Lignano e Grado. In serata possibile acqua alta sulla costa. E ha preso il via la rassegna Cucinando a Pordenone. Tra i presenti alla kermesse Dario Bressanini, che ha parlato di fake news. Come orientarsi nella giungla di informazioni e disinformazioni su cibo e salute? Dario Bressanini, chimico e divulgatore scientifico che incontriamo al PAF e anche un appassionato di fumetti, ne ha parlato ieri a Sacile in un evento nell'ambito di Pordenone Pensa. Tutti noi ogni giorno veniamo bombardati da tantissime informazioni che riguardano il cibo e la salute e molto spesso sono in contraddizione l'una con l'altra, e allora un giorno ci sentiamo dire che se mangi tanti limoni previeni un certo tipo di malattia, e magari la settimana dopo dice no, e si è scoperto invece che mangiare troppi limoni ti causa qualche altra malattia, e allora le persone sono comprensibilmente confuse. Un altro esempio, lo zucchero di canna. C'è questa idea, che non è supportata dalla scienza, del zucchero di canna che faccia meno male o addirittura che faccia bene. In realtà la differenza è uno 0,5% di impurezze che lo rendono colorato, aromatico, ma non c'è nessun tipo di vantaggio. E il cioccolato? Ho citato ieri un articolo che pretendeva di dimostrare che mangiare cioccolato faceva dimagrire, per esempio, ecco, cose di questo genere, che sono magari basati su dati veri ma interpretati molto male dal punto di vista della statistica, e quindi è sempre buona cosa non prendere per oro colato qualsiasi un nuovo studio dice che. Attenzione anche alle varie indicazioni senza zuccheri. L'industria, per esempio, ci aggiunge il succo di mela concentrato o il succo d'uva concentrato, che di fatto è una miscela di zuccheri. Quello che non mente mai è leggere la tabella nutrizionale. Un altro consiglio è quello di diffidare da quell'informazione sugli alimenti molto urlata, quindi sia quella che demonizza alcuni alimenti, ma anche al contrario tutta quell'informazione che esalta alcuni prodotti dipingendoli come degli elisir di lunga vita. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. E siamo allo sport basket. In A2 continua la serie positiva per la Gesteco Cividale, che si impone in casa contro Latina per 75-68 e ora sogna i playoff. Oggi scendono in campo le altre due regionali. Alle 18 Trieste in casa contro Treviglio e Udine al Pala Carnera contro Cremona. La quarta vittoria di fila, settima nelle ultime nove, rimane un urlo di gioia strozzato. Cividale batte agevolmente fanalino di coda Latina, che nella fase orologio ha vinto solo contro Trieste, ma in classifica rimane ferma perché le concorrenti per un posto ai playoff, che significano salvezza diretta, vincono tutte. Troppo il divario tra il girone rosso e quello verde, almeno per quello che riguarda la lotta per non retrocedere. La squadra di Pilastrini stavolta gioca da grande, nel primo quarto lascia sfogare gli avversari, al terzo match tutti contro squadre regionali in sei giorni, che si appoggiano praticamente solo agli stranieri stranieri a Lipiev e Mayfield. Ma già nel finale di primo quarto Re di Vemiani riavvicinano i ducali. Un ottimo Berti nel secondo periodo trascina i gialloblu sul più 13, poi è solo ordinaria amministrazione. I pontini nei primi minuti della ripresa tornano sotto di 6. I gemelli, Miani e Mastellari dalla distanza riscavano senza nemmeno troppa fatica un divario di sicurezza. 7 punti di fila dell'esterno scrivono i titoli di coda con ampio anticipo, concedendo scampoli di basket vero anche al baby Calò, che ringrazia con 2 punti dalla lunetta. 75-58 per la Gesteco, che ora è a 22 punti e ha una partita da recuperare, ma resta al confine tra playoff e playout. Servono almeno 3 se non 4 vittorie nelle ultime 6 per la salvezza diretta, sperando in qualche stop delle altre. Stasera in campo Apu e Trieste, in casa contro le incerottate Cremona e Treviglio. Ambienti entrambi in ebollizione, al Carnera è stato rimpiazzato il tifo organizzato, mentre la curva biancorossa diserterà il primo quarto in segno di protesta per i risultati deludenti della squadra. Per Trieste, out Vildera e forse anche Brooks. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. In Serie C la Triestina, reduce dalla vittoria contro il Fiorenzuola, cercherà di ottenere altri 3 punti per uscire dalla crisi, affrontando la Cenerentola Alessandria allo stadio Tognon di Fontanafredda, con fischio di inizio alle 18.30. Biathlon, Coppa del Mondo, Lisa Vittozzi si giocherà molto questo pomeriggio sulle nevi statunitensi di Soldier Hollow, dove alle 17 ora italiana sarà impegnata nell'inseguimento. La sappadina dovrà a tutti i costi salire almeno sul podio per rimanere in corsa per la conquista della sfera di cristallo generale. Attualmente la Vittozzi si trova in terza posizione in classifica, a 118 punti dalla leader, la norvegese Tandrevold, e a 29 dalla francese Bresa. Sci alpino, Coppa del Mondo ad Are in Svezia per lo slalom, valevole per la Coppa del Mondo la tarvisiana Lara Della Mea, partita con il pettorale 35, è giunta 27esima nella prima manche e si è qualificata per la seconda manche in programma alle 13.30 con diretta su Rai Sport. Giovanni Rossi e Giulia Compagnoni sono i nuovi campioni italiani della sprint. I due valtellinesi sono imposti nella prova senior nella rassegna proposta a Fornia Voltri, che ha visto Luca Tomasoni e Elisa Moreschini cogliere il titolo Under 23 con Leonardo Taufer e Clizia Vallet a segno nella prova juniores. Tra gli Under 23 Luca Tomasoni ha preceduto Pietro Festini Purlan. La rassegna tricolore di Fornia Voltri si completa oggi con le staffette miste. E ora alcuni appuntamenti. Ad Azzano Decima, in occasione della giornata internazionale della donna, lo spettacolo Rosa Goldoni, politico della donna forte, al Teatro Mascherini alle 17.30. Molino Rosenkranz chiude la 9ª edizione della rassegna Fila a Teatro con Cometa sul palco del Teatro Verdi di Maniago, di scena la compagnia italo-peruviana Cometa Circus alle 16.30. Prima giornata del Fagagna Dance Festival, che si apre con un laboratorio rivolto a danzatori amatoriali e professionisti dai 14 anni in su, per scoprire il linguaggio unico della coreografa e performer Ronnie Chadash. Alle 17 Fustella, l'assolo ispirato all'omonimo libro di Filastrocche di Matteo Corradini. La giornata si conclude alle 20.30 in Teatro Sala Vittoria. Oggi l'inaugurazione della nuova mostra Cura delle vie delle foto di Roberto Ceppa, dal titolo Stati d'animo, al Double Tree by Hilton Hotel di Trieste alle 17.30, alla presenza dell'autore e della curatrice Linda Simeone. La rassegna sarà visitabile tutti i giorni dalle 17.30 alle 23 fino al 18 marzo. Ed è tutto per questa edizione del giornale Radio, che è stata redatta e condotta dalla Razzani e Giorgio Beartz, con la collaborazione tecnica di Paolo Cassano e Federico Coma. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Prossimo appuntamento con il GR alle 18.30. A tutti l'augurio di una buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.